Come forse avete visto, stamattina a Torino c'è stata un'imponente operazione di polizia che ha visto il tentativo di sgombero che è tuttora in corso dell'asilo occupato, collegato a un'ampia operazione antiterroristica che prevede l'arresto di 8 compagni accusati a vario titolo di atti di terrorismo nell'ambito della lotta contro i CPR. Siamo in collegamento con una compagna di Torino che si trova in questo momento lì, che forse può aiutarci a capire un po' meglio la situazione. Vai pure giù. Sì, ciao a tutte e tutti. Ciao. Questa mattina siamo stati svegliati prestissimo, comunque dalle 4:30 ormai ci rimbalzava la notizia che uscivano un numero sproporzionato di camionette dalla questura maggiore, quella di Corso Vinzaglio di Torino, e che andavano in direzione di Torino Nord, per cui poi sono iniziate le operazioni di sgombero. All'asilo occupato, tuttora i compagni stanno resistendo sul tetto. Adesso siamo in presidio qua all'angolo tra Corso Brescia e di Alessandria, appunto. Dopo tutto, comunque, una mattinata che ci ha visto a noi, comunque, gruppo di solidali in sostegno, essere comunque caricati e sequestrati per 3 ore, dalle 5 del mattino alle 8 del mattino, e dopodiché di nuovo dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno. Siamo di nuovo stati in stato di fermo, cioè attaccati al muro, sul marciapiede, completamente circondati. E questa è la situazione. C'è una punta comunque, alle ore 18, a chiunque riesca a venire, il radio blackout per vedere adesso il da farsi. Sì, volevo solo finire di dire che si sono anche recati in Corso Giulio 45, hanno anche fatto perquisizione all'interno dell'occupazione. Comunque tutto questo, come dicevi tu, rientra in indagine, un'indagine contro i CPR dal 2017. E sì, ci sono 8 compagni e boh, questa situazione di merda, boh. Sì, capiamo un po' la stanchezza del momento. Io volevo farti qualche domanda. Innanzitutto, quindi l'intenzione della polizia è comunque quella di procedere allo sgombero dell'asilo, perché stamattina questa notizia, diciamo, non era certa. Cioè, anche Radio Blackout mi sembra che avesse parlato che c'era la probabilità che volessero solo fare degli arresti, invece stanno procedendo nell'operazione di sgombero. Sì, esatto, hanno montato tutto i gonfiabili sotto, hanno fatto togliere le macchine parcheggiate e comunque vabbè, sì, in effetti la notizia non era da subito sullo sgombero, però c'è da dire che alle 5 del mattino l'Appendino, sta pezza di merda, ha twittato dicendo che finalmente si sgomberava l'asilo occupato di Alessandria, cercando di riportare il quartiere alla legalità. Quindi comunque, cioè, quella penso che sia stata l'intenzione. Invece asilo che cioè, possiamo ricordare essere da molti anni attivo sia nelle lotte del quartiere sia comunque essere visto anche da molti giovani, da molti ragazzi come un centro importante di socialità e di aggregazione. Sì, esatto. Oltre che portare avanti le lotte contro i CPR, contro le CPR, contro le frontiere, contro gli sfratti, comunque è un luogo di socialità indubbiamente, in cui la gente si trova, si organizza, e boh, si conosceva, e c'è anche il momento conviviale del martedì, che durante la cena c'è la possibilità di vedere i compagni che magari non becchi per tutta la settimana, per organizzarsi, per parlare, per discutere. E boh, adesso siamo tutti un po' scioccati. Sì, poi immagino che già sia stata una Vedo. giornata molto lunga. Io non so Silvio se te volevi chiedere qualcosa, io se no faccio un'ultima domanda e poi vi lascio Solo tranquilli. riguardo al presidio, se il quartiere ha dato solidarietà, sta dando solidarietà. Sì, abbastanza, abbastanza. Purtroppo quando è iniziato il tutto, ovviamente si trattavano delle 4:30 del mattino, in cui ovviamente era una città dormiente. Invece nell'arco della mattinata si sono unite i vari solidali che hanno sempre visto le lotte che si portano avanti all'asilo e che si sono avvicinati, anche gli studenti, quindi boh. Positivo. Rilanciamo, non lo so, all'appuntamento delle 18 perché occorre fare qualcosa, dare una risposta. Ok, sicuramente sì, è importante dare una risposta il più presto possibile. Io invece volevo chiederti se vi è stato possibile a qualcuno sapere di cosa sono precisamente accusati le 8 persone sottoposte a misure cautelari. Sì, del 270 del codice penale, ci Ok. sarebbe 270. Sì, ma non sappiamo, diciamo, i fatti specifici che sono. No, questi contestati non li sappiamo neanche noi perché nessuno era con noi quando gli sono state date le carte. Ok, va bene. Quindi non sappiamo nulla. Ok, grazie mille. Scusa il disturbo, ti ringraziamo per le notizie che hai dato a noi e ai nostri ascoltatori. Magari ci sentiamo più tardi per sapere anche un po' come è andata l'assemblea. E niente, ti ringraziamo e porta un abbraccio e un salutone a tutti quelli che sono lì, anche da noi compagni di Firenze, che ovviamente ci accodiamo nel dimostrare solidarietà e complicità a chi sta subendo questa imponente misura repressiva. A Grazie, grazie, un abbraccio a tutte e tutti. A presto, presto. ciao ciao. Ciao. Ok, non so se cioè, vogliamo un attimo contestualizzare la vicenda con quello che sappiamo. Sì, decisamente. Mettiamo un po' di musica prima. No, no, Ah, sottofondino. ok. Non sono abituato a fare radio con strumenti così avanzati. Allora, sì, probabilmente dovrei contestualizzare te, visto che l'hai frequentato. Bene, sì, io non penso che per quanti di voi siano stati a Torino, forse avrete sentito parlare dell'asilo, è comunque un centro, possiamo chiamarlo centro sociale, anche se per usare questo termine di comodo che indica un po' in generale gli spazi occupati dove si svolgono attività politiche di diversa natura. E, è stato occupato nel 95, quindi è nel quartiere di Aurora da diversi anni, quartiere di Aurora che, se non avete presente la città, quella parte è prima periferia torinese, quindi non è distantissima dal centro, è subito al di là della Dora, che è uno dei fiumi che attraversa Torino, e è un quartiere che ha visto da molti anni un'alta concentrazione di migranti. Solo per farvi capire un attimo, è accanto al mercato di Porta Palazzo, che è famoso per essere uno dei più grandi mercati a cielo aperto di Europa. E nel quartiere c'è una forte multietnicità e sono presenti popolazioni sia dal Nord Africa che dall'Africa centrale. A molti cinesi pure. Recentemente questo quartiere sta subendo una forte operazione speculativa, soprattutto legata alla gentrificazione. Sono iniziati ad aprire bar, localini, soprattutto per andare un po' incontro, diciamo, alla componente studentesca che aveva iniziato ad abitare la zona poiché le case lì costavano meno che da altre parti e non era comunque una posizione scomoda, ma soprattutto è stato aperto questo imponente centro direzionale del gruppo Lavazza, che se siete informati un po' su qual è il panorama dei padroni dell'Italia, è una delle due grandi famiglie che controlla Torino. Ma... l'altra è la famiglia, che non mi ricordo come si chiama, che è quella che controlla Intesa San Paolo. Comunque i due grandi protagonisti della ristrutturazione torinese sono queste due. I Lavazza sono quelli del campo da golf transfrontiero? Sì, sono proprio loro. Sono ovviamente conosciuti principalmente per la produzione di caffè, però sono ormai diventati una holding grandissima che controlla veramente tante cose, tante aziende, e ha un patrimonio immobiliare non indifferente, soprattutto nella città di Torino. Basti pensare che anche qui da noi c'è un'altra occupazione che ora attualmente è sotto sgombro, che è quella di Viale Corsia, che era proprietà della Lavazza. Ah, guarda un po'. E comunque, per tornare al nostro centro sociale, negli ultimi anni i ragazzi dell'asilo purtroppo non sono nuovi a tutto questo genere di misure repressive, a cui dobbiamo dire che la Procura di Torino ci ha abituato, perché se solo pensiamo recentemente, comunque ha combinato diverse misure cautelari, tra cui ultimamente ha fatto molta notizia la richiesta di sorveglianza speciale per alcuni ragazzi che sono stati a combattere l'ISIS in Siria. Ma anche prima, comunque, ricordiamo tutte le campagne giudiziarie contro il movimento Notav. Gli stessi ragazzi dell'asilo si sono visti più volte combinare divieti di dimora o misure domiciliari per fatti molto spesso inventati di sana pianta dalla procura torinese, che però riesce sempre, soprattutto a Torino, a trovare questa complicità che in altre parti d'Italia è fortunatamente inedita, tra PM e giudici, che spesso si giocano di sponda nel combinare richieste e vedere distribuite pene. Pesa. Sì, è una situazione molto, molto pesa. Poi lo sgombro dell'asilo veniva invocato da tanto tempo, soprattutto dalla giunta che qualcuno si ostina a considerare amica dei 5 Stelle dell'Appendino, però cioè, solo per il fatto che magari si sono schierati contro la TAV, poi non dobbiamo dimenticare che la guerra ai poveri la stanno facendo in maniera molto attiva, soprattutto sì, nel quartiere di Aurora. Che poi anche sulla TAV bisogna vedere. Anche sulla TAV bisogna vedere quanto sia una cosa di facciata e quanto no. Aggiungo un'ultima cosa, giusto per dare un quadro completo della situazione. Recentemente la stessa giunta Appendino aveva un po' riscontrato questa forte resistenza popolare sempre vicino al quartiere d'Aurora, quando ha provato, ancora non c'è riuscita perché da circa un mese è in vigore una forte protesta, a spostare lo storico mercato di cianfrusaglie, potremmo definirlo così, ma letteralmente si può trovare di tutto a quel mercato, che è il mercato del Balloon. Non so se qualcuno di voi ci è mai capitato, è un mercato che di solito si svolge il sabato mattina e per molti anni è stato in realtà un mercato illegale, nel senso che i mercatari arrivavano lì la notte, montavano senza nessuna autorizzazione, poi è stato in qualche modo autorizzato, hanno cercato di legalizzarlo con tutto quello che questo comporta, quindi compreso il fatto che prima, magari pur essendo un mercato illegale, era comunque un mercato libero dove chiunque, soprattutto i più disperati, potevano andare a raccattare qualche soldo per campare. Poi invece è stato richiesto di pagare una tassa il per chi metteva il banchino, e sostanzialmente questo mercato vuole essere spostato sempre in quartiere, però dall'altra parte sostanzialmente del quartiere, quindi in una posizione molto meno centrale, per fare spazio a quella che è la riqualificazione di Porta Palazzo, che per certi versi può ricordare un po' quello che noi fiorentini abbiamo vissuto con la riqualificazione di San Lorenzo, quindi un mercato preso, snaturato e trasformato in un polo turistico del cibo. Dove, alla merce di turisti, sì, dove i ricchi vanno a consumare i finti prodotti tipici della zona. E quindi niente, grandi interessi si scontrano su questo quartiere, e lo sgombero di stamattina è solo un tassello in più che si va ad aggiungere nell'offensiva dei grandi capitali e dei grandi speculatori su questa area di Torino. Bene, che facciamo? Interrompiamo e riproviamo una telefonata fra poco? Sì, mettiamo magari un po' di musica, almeno prendiamo un po' di fiato. Vai, sicuro. Bisogna sempre tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore. È necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare? Bisogna sempre tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore. È necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare? Beh, io sinceramente provo anche odio, la mia vicina che reclama odio per il frastuono che procuro. Odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duraturo. Odio, quando sono esasperato. Odio, e non mi sento esagerato. Odio, sinceramente sono fiero. Odio, forse non ho po' sincero. Odio, e il destino non parlarne. Odio, puoi sempre essere gli stronzi. Odio, è veramente un paradosso. Odio, forse è meglio lasciar stare. Odio, ma si viene sui versi. Odio, e provo tutti i sentimenti. Odio, oltre ad amare troverai. Odio, quando mi portano ad odiare. Per ora non riusciamo a contattare altre persone dal presidio solidale di Torino, né purtroppo riusciamo ad avere informazioni più precise da chi ancora resiste sul tetto. E lo speciale di Wombat per ora si chiude qua, però vi rimandiamo alle altre trasmissioni che andranno in diretta stasera per avere informazioni più precise su quello che è accaduto durante la giornata. Per esattezza, alle ore 20 potrete ascoltare in diretta l'Accademia della Brusca. A risentirci. A presto, sperando che le prossime notizie siano migliori.